dimmi amico, tu come stai? Ogni volta che ti penso sei nel respiro che nasce in me, nel ruscello che scorre giù, dolci albe sei tu. Passa il tempo e più non guardo il passato che non ritorna. Ora adesso è qui che io vivo, son sicuro che tu mi capirai. Forse il vento adesso sei, soffia forte e non muore mai, una foglia ingiallita e poi la primavera rinascerà. Non voltarti a pensare, un ricordo che nasce ora, ora adesso è qui che io canto, chiudi gli occhi e poi una luce è la fantasia che mi guarirà.